lascia tutto il meglio che puoi, lascia tutto il meglio che puoi, lascia tutto il meglio che puoi, non sarà mai morto, finché sopravviverai in ricordo, lascia tutto il meglio che puoi, lascia tutto il meglio che puoi, lascia tutto il meglio che puoi. Non sarà mai male tu che sopravviverai. A volte resto da solo, rinchiuso in questa mia stanza. Mi specchio con arroganza, ricerco la mia speranza. Abbraccio chi non mi abbraccia e lo cito sopra la traccia. Mi prendo pure del falso quando ci metto la faccia. Ma quale gioco il mio ruolo? Resisto, insisto al mio suono. Lo studio incasti in rime. Sarà la mano che ingoio, la pena sputa petrolio. Non serve un foglio carbonio. Volevi un poco di buono? Ho preso il chiodo e il pretorno. Ma cosa c'è che ci aspetta se questa vita è una merda? Ricordo un uomo per terra, un padre inerme che osserva. Pensavi stessi scherzando, lo scherzo lo sto piangendo. Pago salato sto pegno, mi impegno e prendo l'impegno. Che cosa importa ben poco di ciò che stiamo provando. C'è chi ci ascolta e comprende, chi non sa farlo si arrende. Se sta ascoltando non farlo, da sopra un micro vi parlo. Lo faccio senza un guadagno, con l'ansia sopra le stelle. Fammi il piacere, non cercarmi almeno stavolta. Che di stessere il cervello ha la forma di un chiavistello alla porta. Non esco stufo di mascherarmi in mezzo alla folla. Tocca che ti sputo ogni fardello che ho dentro alla banca. Domande me ne faccio tante, ma mi metto apposta mentre aumento la posta e non penso la risposta sia solo divertirmi, ma in fondo che posso dirti? Io so soltanto che vorrei averti qui a letto, stronza. Essere sincero costa, ma non lo fossi con me stesso, come pretendere poi che il mondo intero possa? Ma è proprio qua che entra in gioco il rap. Roccia qui mi aggrappo quando ogni altro cazzo di sentiero crolla. Alzo lo sguardo e scruto il cielo scuro quanto le acque del mare in cui il mio veliero affonda, pensando che farò di tutto questo preso male ma contento, perché pare che vedo soltanto il vero affronta. Quando tengo tutti contro basta un beat, brother, la base è il mio bunker. Quando fuori tutto il mondo esplode, io che giro con gli attacchi di ira, prendo la mira e sparo cici flow contro queste merde in fila. Parlano dei soldi, sparlano di molti, fanno i grossi face to face, non ti guardano negli occhi. La mia city stringe come fosse un'anaconda, bacio l'asfalto come fosse la mia donna. Sono solamente io e basta, mi prendo il mio e il mio Dio vive in un rullante cassa. Adam Blisi, fuori serie. Io sono sempre in guerra come ad Israele. Fotto tutti quanti con la testa alta. E se sono un figlio di puttana è colpa della massa. Ho il rispetto dei più grandi e resta molto easy, che io so bene di chi posso fidarmi. Per ogni volta che sono stato messo all'angolo, per ogni porta chiusa in faccia, ma avuto il panico, salico come la penna a scriver lei per me. Sento sto peso a carico e mastico vorrei gli stessi che per una vita sempre accantonato, nei miei vuoti più totali dietro ad un passato dove il sole come neffa per me non c'è stato. Solitudine in pacchetti che mi son fumato fino all'alba, notti dentro un vagone, stati d'ansia colorati col karma che ho preso a botto. A volte senza una ragione per delle risposte, neanche il tempo di capire c'è già chi ti fa.